Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che magari a qualcuno può sorprendere. Dice, ma come si parla di gusto, si parla di palato e questa trasmissione oggi parla di hamburger. Sì, cari gastronauti, oggi parleremo di hamburger perché non è detto che l'hamburger sia una cosa da buttare o sia una cosa da rifiutare. L'hamburger, quando è fatto con carne straordinaria, è fatto bene e diciamo è anche condito al meglio, è un signor piatto che può anche costare poco, ma può essere anche molto, ma molto nutriente. Quindi ne parleremo per questo. Volevo anche così premettere che in questa trasmissione io ho anche invitato i responsabili di McDonald's. Non partecipano, ma non per protesta o non per polemica o non perché ha così paura della discussione, semplicemente sono impegnati in una convention, diciamo, chi ha come posso dire il potere di parlare, e quindi sono assenti. Quindi volevo premetterlo perché qualcuno può dire, beh, insomma, una trasmissione non c'è magari McDonald's, magari arrivano gli strali di McDonald's e McDonald's non si può così difendere. Questa è la realtà, quindi c'è un'assenza che non è un'assenza per così dire voluta, ma è un'assenza per altri impegni. Bene, detto questo, io voglio tornare a parlare dell'hamburger. Hamburger, cioè questa parola hamburger, cioè in italiano non lo so se equivale esattamente con la Svizzera, perché alcuni la chiamano Svizzera, oppure se si può chiamare in altre maniere. Allora io voglio cominciare questa trasmissione da una linguista, una docente dell'Università di Modena, che ogni tanto chiamo in aiuto perché è molto così portata anche a spiegare i fenomeni del cibo, perché ama molto il cibo, Cecilia Robustelli. Buongiorno Cecilia. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Senti Cecilia, ma questa parola hamburger? È una parola chiaramente non italiana. Se la troviamo scritta ormai in tutti i negozi che la vendono e vediamo che c'è un H davanti e le parole che iniziano con l'H in genere non sono proprio tipiche dell'italiano. Infatti la spia della natura straniera di questa parola viene proprio dalla grafia, perché ormai la si pronuncia tutti tranquillamente hamburger. Da dove viene? Dunque, è una parola inglese chiaramente, ma è una parola che traduce, rispecchia l'originario Hamburg steak, cioè una bistecca di Amburgo. In pratica era la solita polpetta di carne macinata che conosciamo tutti, che molto probabilmente venne importata da emigranti tedeschi negli Stati Uniti. Da lì il termine hamburger si è diffuso in italiano, ma attenzione, come dicevi giustamente tu prima, la polpetta di carne macinata in Italia la si mangiava già, ma tutti noi, e ti associo Davide, che siamo grandicelli, la conoscevamo come Svizzera. Quindi si può anche riproporre di richiamare questo hamburger all'italiana Svizzera. Rimani con noi perché ora ricordo ancora il numero verde 800240024, perché penso che si siano telefonate in questo senso, quindi chi vuole discutere sull'hamburger, chi lo mangia, chi non lo mangia, chi lo rifiuta, messaggi SMS 349-238-6666, ne è già arrivato uno. Francesco di Stradella dice, da sempre mangiavo svizzere, cioè hamburger di cavallo addirittura, ma splendido anche quella di tacchino e trovarla di coniglio. Bene, quindi diciamo che la Svizzera può essere riportata tutto. Bene, abbiamo con noi anche un personaggio importante del mondo della macelleria che da qualche mese ha lanciato, anzi ormai da più di qualche mese, ha lanciato un locale che si chiama Magdario. Magdario, e dentro questo locale c'è un piatto completo appunto fatto dall'hamburger, che è un hamburger fatto con carne particolare. Ora ce lo facciamo raccontare da Dario Cecchini. Buongiorno Dario. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ecco, ma cos'è questo Magdario? Il Magdario nasce prima di tutto come un'idea contemporanea e quindi come un gioco. Nasce sul fast food, cioè sull'idea originaria del fast food, che come tu sai solamente a pronunciarlo ormai la gente è abituata ad altro, il fast food. Nasce sull'idea che un pranzo veloce possa essere estremamente buono e soprattutto possa essere estremamente economico, ma al tempo stesso, cioè avere una buona qualità per un buon prezzo, che questo credo sia la scommessa dei prossimi anni, che la buona qualità spesso c'è, il buon prezzo qualche volta sì e qualche volta no. Buon prezzo vuol dire prezzo accessibile anche in questi momenti non facili per tutti. E nasce anche il Mac Dario con l'idea di usare al meglio certe parti del manzo che generalmente vengono, non voglio dire bistrattate, ma usate meno, cioè aver rispetto dell'animale ucciso, usare tutto. Questo credo che ora sia ancora più importante, perché i tempi non sono facili, come ho detto, ma credo che sia sempre importante, soprattutto per un macellaio artigiano di famiglia come me. Ecco, io volevo ricordare, se c'è qualcuno in linea, qualche ristoratore, qualche trattore, insomma, che serve nel proprio locale, chiamiamola svizzera, chiamiamola hamburger all'italiana, chiamiamolo come volete, ma se ci sono locali che hanno cominciato a utilizzare questo piatto e se questo piatto funziona. Io devo dire che, perché questa trasmissione? Perché ultimamente ho visto che in giro per l'Italia molti macellai hanno cominciato a farlo, a venderlo, e così molti ristoratori. Sentiamo Fabrizio da Roma. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Buongiorno Fabrizio. Mi dica. La mia domanda è questa, specifica al macellaio. Vorrei sapere se all'interno dell'hamburger, quello diciamo anche industriale, che troviamo anche surgelato all'interno dei supermercati, se all'interno dell'hamburger appunto vengono inserite alcune parti dell'animale, come le parti cartilagine o addirittura gli occhi degli animali. Purtroppo, ecco, la domanda è anche un po' così cruda, nel senso... Sugli occhi degli animali, lei dice? Ho capito bene? Sì. Ma io non so, io passo la domanda a Cecchini, ma anche lui credo che non conosca queste produzioni industriali. Comunque chiediamo, buongiorno Cecchini, di nuovo. Davide, sono sempre io. Sì. Gli occhi, io non lo so, io non mi intendo di cibo industriale. Quando l'ascoltatore ha parlato degli occhi degli animali, mi è venuto in mente quel film di Indiana Jones, quando il tempio maledetto, mi sembra qualcosa del genere, che gli fanno mangiare di tutto, scarafaggi o che. Io credo che non sia un problema di inserire cibo che non si può mangiare, perché forse questo era il significato. Il problema è di aver rispetto, cioè non si fa l'hamburger con il filetto. Uccidere un animale è un gesto violento e per me è necessario, perché sono carnivoro, e credo sia necessario, da come la vedo io, anche per la catena alimentare, per il nostro giro del mondo. Ma è importante usare certi tagli che sono l'anteriore, che sono tagli magri, che insomma è importante anche spiegare che una spalla di manzo o una pancia di manzo, che è carne buona, magra, non deve essere grassa, è altrettanto buona che un filetto, e ha le stesse proteine del filetto, viene dallo stesso manzo, cioè un manzo non è una bistecca, una fettina pulita, magra o un filetto, un manzo è anche tutto il resto. Poi francamente cioè, questo dà il sospetto che dall'ascoltatore che, essendo macinato in passato, ci sia dentro chissà quale troiaio. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di hamburger o svizzero, perché no, anche polpetta piatta, non so come si potrebbe chiamare. Sentiamo Ampelio dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Ampelio. Buongiorno a voi. Volevo dare un piccolo contributo, hamburger o polpetta, perché io ricordo un bellissimo ricordo di quando ero bambino, adesso ho 45 anni, quando mia madre raccoglieva il bollito che rimaneva o pezzi di carne, li macinava con della noce moscata, poi faceva un bel impasto, faceva proprio la forma dell'hamburger, e poi li cucinava con un po' di burro ed erano squisite, ecco, comunque erano una cosa, un profumo e un ricordo che ancora adesso ogni tanto chiedo a mia madre che mi faccia. Bene, grazie Ampelio per questo, diciamo, ricordo, perché ho già ricevuto qualcosa come una ventina di SMS e devo dire sono contento per questo, perché questa puntata sta risvegliando i ricordi, e a me piace moltissimo quando c'è questo rapporto tra cibo e ricordo, cibo e memoria, perché in fondo il cibo è soprattutto questo, è molto meno un fatto organolettico, e vedo che tutti con l'hamburger tornano bambini. Qua si parla di mia mamma è mancata da molti anni, così il ricordo si fa malinconico ma anche dolce. Stasera preparerò una bella svizzera alle mie figlie. Francesco da Milano. E ancora, caro Davide, la ringrazio perché stamattina risvegliato un me ricordo di quando ero bambino, la mia mamma mi preparava la svizzera con le sottilette. E via dicendo, ma ce ne sono tanti. Alcuni mi dicono che in Francia si chiama steak hachette, e i francesi sono sempre molto sofisticati, come al solito trovano delle loro diciture. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Io vorrei che qualcuno me lo raccontasse al telefono, un ricordo, oppure qualche ristoratore che mi dicesse: servo l'hamburger, piace, me lo chiedono. Beh, Cecilia Robustelli, allora come lo chiamiamo in italiano? Una cosa veloce. È velocissima, io vorrei intervenire. Riprendiamo Svizzera, perché per noi la Svizzera era la carne tritata cotta semplicemente. Quando parliamo di hamburger, nel nostro immaginario arriva il panino con la sottiletta e il cetriolo, quindi distinguiamo un po'. Credo che le nostre mamme non usassero il panino tondo ben noto, ma ci facessero della bella carne tritata all'olio. Bene, grazie. Io dimmi. Starei su Svizzera, o forse possiamo trovare un nome nuovo con McDario magari. Va bene, grazie Cecilia. Ciao. E ho anche un suggerimento: a casa mia la chiamiamo schiacciata. Bene, comunque ognuno la chiama in ogni maniera. Dario, un'ultima battuta, dici ai nostri radioascoltatori qual è il pezzo migliore se si vogliono fare un hamburger a casa, di chiedere al macellaio? Allora, a parte Davide, che volevo dire qualcosa anch'io sul nome, in alcuni vecchi città italiani si chiamavano anche medaglioni. Ah, perfetto. Che io lo trovo bello. Il pezzo migliore è la parte dell'anteriore, che è il taglio più economico. È un taglio molto sano e carne magra, possono chiedere la polpa di spalla o il reale, quello che i macellai chiamavano il mattamà, che io sempre fin da piccino ho cominciato presto, mi sembrava questo nome così strano, ma che sarebbe il prolungamento delle bistecche con l'osso, cioè il pezzo che rimane sotto la spalla. Sono due pezzi buonissimi. Chiaramente l'hamburger deve essere fatto di carne di manzo, e deve essere carne di manzo tritata, magra e buona. Grazie. Ecco, è quello lì. Grazie a Dario Cecchini, ha risposto a Morena che ci aveva chiesto questo. Sentiamo Giorgio da Bologna. Buongiorno. Ah, Giorgio, buongiorno. Giorgio è presidente di Enogà, non avevo visto il nome. Buongiorno Giorgio. Cibo e ricordi, chiaramente la polpettina, noi la chiamavamo la polpettina di Paperino, impastata con l'aglio e il pane grattugiato e fritto in olio di oliva, chiaramente è un ricordo straordinario che io ho della mia infanzia, e tutti i venerdì e tutti i giovedì era il cibo del mezzogiorno quando tornavamo a casa da scuola. Però volevo porre l'accento su un altro aspetto, proprio sulla definizione di hamburger, perché ricorda immediatamente il McDonald's. Non abbiamo nulla contro il McDonald's, ci mancherebbe altro, però sai, ecco, io vorrei far capire il distinguo che c'è tra e queste due tipi di cultura, anche visto, diciamo, la promozione proprio in questi giorni, che non accetto, ma questa è una scelta di marketing delle aziende e non la voglio criticare, l'hamburger insieme al parmigiano reggiano nel McDonald's. Cioè, noi oggi abbiamo bisogno dei punti ristorazione del McDonald's per promuovere il parmigiano reggiano. In questi giorni in tutti i McDonald's c'è l'immagine del parmigiano reggiano. Allora, ecco, dico, questo secondo me è deleterio, e anche il consorzio, mi dispiace dirlo, mi assumo la responsabilità di quello che dico, da questo punto di vista non sta certamente facendo una buona informazione. Premesso questo, la polpettina è la polpettina, l'hamburger è l'hamburger. Bene, grazie. Speriamo che ci sia qualcuno che raccoglie questa provocazione, e ci sia qualcuno del consorzio, qualche produttore di parmigiano reggiano che possa intervenire su quanto detto Giorgio. Giorgio è presidente di Enogà, che è un'emittente radiofonica bolognese. Sentiamo Mariangela da Trieste. Buongiorno Mariangela. Da Treviso, per la verità. Comunque io sarei un po' dubbiosa sul fatto che hamburger sia una parola inglese, perché sarebbe pronunciato diversamente. Io so che hamburger vuol dire una cosa, o un cittadino di Amburgo, difatti c'ha l'H come Hamburg. Sì, ma guardi che la nostra linguista ha detto appunto di Amburgo, ha tradotto, che proviene cioè la specificazione è praticamente piatto di Amburgo. Forse forse sono stata distratta, sì, avevo sentito la parola inglese, invece no, era un cittadino di Amburgo che faceva polpette a New York. Ecco, infatti non ha detto esattamente questo, che faceva polpette a New York, ma ha parlato di una parola di derivazione tedesca da Amburgo. Comunque lei ha dato un'ulteriore precisazione, questo siamo molto contenti. In che periodo, visto che lei è molto ferrata, ma Mariangela? Ah, è caduta la linea di Mariangela, mi spiace molto, magari ripeschiamo la Mariangela perché mi interessa questa cosa di New York. Andiamo avanti, perché hamburger è stato, cioè viene recepito anche in altri piatti. E allora Moreno Cedroni della Madonnina del Pescatore di Senigallia, nonché del Clandestino di Porto Novo, io ricordo, e non so se sbaglio, che qualche anno fa proponeva un hamburger di pesce. È così, Moreno? Ma ciao Davide, senti, praticamente io ho iniziato, ci sono stati degli inizi, ecco, con l'hamburger, degli studi, che poi sono sfociati nell'hot dog. Ah, ecco. Questo come mai? Perché non riusciva bene? E dunque, praticamente, sai, tagliando questo pesce al coltello, oppure macinato e poi cotto, non c'era questo risultato che io volevo, questo risultato gustativo, non rimaneva croccante e quindi mi sono dirottato sull'hot dog e lì ho avuto quello che volevo, ecco, la giusta consistenza, veramente l'illusione di mangiare un hot dog di carne invece non è altro che seppia, ecco. Ecco, devo dire che ci sono tutti questi piatti ormai che diciamo che derivano dall'inglese, hamburger vabbè potrebbe derivare dal tedesco, ma insomma, ritornata la nostra Mariangela da Trieste, ora poi la riprendo. Volevo dire che hot dog, anche questo, bisognerebbe italianizzarlo, io non è che voglia fare la riforma con dei futuristi o di altro, ma insomma, secondo me hot dog, io credo che per l'originalità di questo tuo piatto, perché io l'ho assaggiato, te l'ho visto fare anche in Francia, alle Havre, durante una grande manifestazione, se ben ricordo, e potresti chiamarlo con un qualcosa in italiano, sarebbe, come posso dire, molto più tuo. Comunque grazie a Moreno per averci detto che l'hamburger nel pesce è sfociato nell'hot dog. Mariangela da Treviso, Mariangela, buongiorno di nuovo. Buongiorno, allora io le posso aggiungere che è sicuramente una parola tedesca. C'era l'individuo di Amburgo che era emigrato e anche l'hot dog ha a che fare con senape e wurzel, perciò deve essere di origine tedesca anche quello, non la parola ma il piatto, diciamo, l'elemento, cioè l'alimento. Su questo posso aggiungere qualcosa anch'io, perché sì, a Rovereto c'è una tradizione sul probusto che è sicuramente forse antecedente all'hot dog ed è la stessa cosa. Credo che ancora un macellaio di Rovereto produca questo probusto ed è identico all'hot dog. In tedesco basta aggiungere una R e si indica il nome del cittadino di quella nazione. Per cui quando Kennedy disse "Ich bin ein Berliner", beh, molti tedeschi lo immaginarono come Krapfen, perché quello che noi chiamiamo Krapfen in Germania si chiama Berliner. Signora, ma lei che mestiere fa? Perché a questo punto la chiamerò spesso. È il mio mestiere. Cioè, una linguista? Io ho insegnato per 30 anni, 35, tedesco. Ah, ho capito. Bene, io la ringrazio. Lei è stata bravissima e gentilissima. Grazie, a presto. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Avrei moltissimi sms anche da leggere, ma per ora continuiamo nel nostro giro. Bene, ora andiamo in Sardegna. Andiamo alla Maddalena da un macellaio, un bravissimo macellaio che si chiama Severino Gala. Buongiorno Severino. Buongiorno a te e agli ascoltatori, Davide. Perché chiamo Severino Gala alla Maddalena? Perché io quest'estate ogni tanto passavo dalla sua macelleria e ho visto che ha fatto un gran boom con gli hamburger. È vero, Severino? Sì, è vero, Davide. Ma cosa avevano di particolare questi hamburger, Severino? Oh, Davide, chiamiamolo schiacciatine perché mi è piaciuto il nome. Bene. Che hai definito tu, perché almeno diventiamo un pochettino italiani. Bene, bene. Con queste parole sempre straniere. Chiamiamolo schiacciatine. Sì. E cosa c'avevano di particolare? In particolare intanto il prodotto è la carne. Ecco. Si deve sentire la fragranza fresca della carne, non il sapore forte, ma proprio il sapore delicato, quando la carne è matura, che è pronta a essere lavorata. E più ci sono degli ingredienti sempre naturali che aiutano a sviluppare questo tipo di aroma della carne. Ecco, Severino, ho un radioascoltatore che mi scrive: gli hamburger si fanno sempre con la carne congelata, ma io credo che ci siano dei macellai che non la fanno con la carne congelata. No, io li faccio con la carne fresca, perché è fondamentale, perché dopo l'hamburger nella mia macelleria vanno soprattutto per i bambini, ed è un crimine dare la roba, non che non sia buona la roba congelata, ma dare la roba congelata per fresca è un crimine. Ecco, quant'è un hamburger? 125 grammi più o meno di carne? La media è sempre quella, sui un etto 125. Quindi diciamo che si può mangiare con poco, cioè un buon hamburger, delle patate, delle cipolle. Sì, si può spendere poco e mangiare bene, perché è sempre un prodotto genuino la carne. Non è anche questo di dire l'hamburger, ci mettono tutte, ci deve mettere la carne buona e basta, non che bisogna fare un giro di cose, mettere il prodotto buono. Già ho sentito prima Dario Cecchini che diceva che la parte anteriore è una parte pregiata, è pregiata sia per fare hamburger che per fare altro, ma per fare hamburger è fondamentale. Bene, grazie a Severino Gala, la Maddalena, dove ci sarà il G8 fra qualche mese. Il gastronauta. Medaglioni, svizzere, schiacciatine, ebbene, insomma, stiamo parlando di hamburger perché purtroppo è il nome con cui viene riconosciuto una certa tipologia e credo che sarà veramente dura poterlo cambiare. Ma sentiamo comunque Salvatore della provincia di Ragusa. Buongiorno Salvatore. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, vorrei forse dare qualche delucidazione per quanto riguarda gli hamburgers e gli hot dogs, che sono un americano che vivo qui in Sicilia. E allora, gli hamburgers, come aveva detto la signora prima, proprio derivano da Amburgo, e ormai c'è stata un'evoluzione che hanno fatto in America gli fish burgers col pesce, i veggie burgers con le verdure, e adesso sono arrivati anche alla soia burgers con della soia. E per quanto riguardavano invece gli hot dogs, derivano da Frankfurt in Germania, perché in America si conosce anche sotto il nome di Frankfurter, che è quello che l'ha portato, diciamo, dalla Germania all'inizio dell'Ottocento in America. Bene, io la ringrazio, lei ci ha dato veramente così una lezione su tutto, però a questo punto io mi ero tenuto per ultima, diciamo, la storia dell'hamburger, e a dire a questo punto la devo sciorinare, insomma. Allora, l'hamburger è stato inventato ad Amburgo e dagli marinai, perché i marinai consumavano carne tritata, cruda e speziata in mezzo al pane. È stato portato agli inizi dell'Ottocento dai marinai tedeschi nei porti americani e poi ovviamente gli americani se ne sono appropriati. Il primo panino con l'hamburger è stato nel 1885 nel Wisconsin, e dopodiché diciamo che la prima catena è nata nel 1954, non è McDonald's ma è Burger King, e nel 1955 è nato il primo McDonald's. Bene, io credo così fosse divertente anche questo fatto, me l'ero tenuto per il finale, però ora l'ho dovuto dire. Bene, io allora continueremo a parlare, appunto, mandateci delle email, mandateci tutto che volete su questo, perché tutti chiedono di italianizzare wine bar e tutto quello che è inglese, ma volentieri, poi magari un giorno faremo una trasmissione. Sentiamo Gualtiero da Milano, buongiorno Gualtiero. Ciao Davide, complimenti per la trasmissione. Grazie. No, volevo rispondere prima al tuo appello. Noi siamo un ristorante che proponiamo il Giotto di Cazzamali, che è l'hamburger, e i clienti sono ben contenti, anzi vengono e ci chiedono il Giotto, non l'hamburger proprio. Quindi ormai diciamo che questa parola ha sostituito, guarda caso, io sull'altra linea un personaggio che si chiama Franco Cazzamali, che è l'inventore di Giotto. Però prima volevo chiedere una cosa, Gualtiero, ma la gente, cioè, ha diffidenza quando prende l'hamburger, ti chiede con che cosa ho fatto, oppure sicuramente si passa oltre a tutto quello che è stato scritto, è stato detto sull'hamburger? No, la diffidenza c'è, tant'è che io lo presento infatti come Giotto, scriviamo Giotto e tutti magari, dato che scriviamo il menù a mano, magari pensano che sia gatto. Allora glielo spiego e dico che è il nostro macellaio che si rifiuta di chiamarlo hamburger. Questo lo dico anche agli inglesi o agli americani che arrivano, e anche loro comunque lo mangiano e rimangono stupefatti, perché effettivamente la differenza c'è. Però la diffidenza esiste. Bene, grazie a Gualtiero. Sentiamo Massimo da Modena, buongiorno Massimo. Pronto, buongiorno. Niente, io volevo dire che Io ho sempre mangiato l'hamburger valdostano quassù in Val d'Aosta, e per me è assolutamente diciamo il migliore. Hamburger io penso di averlo trovato in tutta Italia, il nome hamburger, non altri nomi, cioè anche altri nomi, però il suo nome vero secondo me è hamburger. Bene. Girando, ad esempio, io abito a Modena, dei veri hamburger sinceramente in macelleria non è che ce n'è tanto. Ho trovato due macellerie a Modena, una in centro, che veramente fa degli hamburger fenomenali, e mi sembra di essere tornato indietro 10 anni fa quando mangiavo qui Valdostani, macelleria in centro, antica macelleria da Ghioldi, ma veramente fantastici. Senti, se mettiamo del gnocco fritto vicino magari? No. È una battuta la mia, è una battuta, perché sono un grande ingordo di gnocco, e quando penso a Modena penso a Giusti e penso al gnocco fritto. Grazie a Massimo da Modena. Sentiamo Gilberto da Milano. Buongiorno Gilberto. Buongiorno, rapidissimo, un appello. Una circa 40 anni fa negli autogrill delle autostrade italiane veniva servito un panino che si chiamava Quick, il panino dell'automobilista, che aveva un hamburger cucinato sulla piastra al momento e aveva una salsina segreta, che mi sogno ancora adesso, di sottaceti tritati con qualche salsa, non so, che era estremamente buono. Era ancora molto tempo prima dei vari McDonald's, Burger King, eccetera. Se qualcuno conosce la ricetta del Quick, mi farebbe un grandissimo favore. Bene, io rilancio l'appello, speriamo Gilberto che si faccia vivo qualcuno. Mi sembra che stamattina sia una trasmissione di Amarcord. Vabbè, e Anna da Roma, buongiorno Anna. Buongiorno, anch'io mi aggiungo alla schiera di quelli della Amarcord, perché anch'io vengo dalla Venezia Giulia, da Gorizia, e dove c'è questa forte influenza austriaca, c'è stata ovviamente. Quindi in casa mia questo hamburger si chiamava Schnitzel, con una parola tedesca che vuol dire fettina in realtà. Schnitzel. Beh, la Wiener Schnitzel è la cotoletta, quella che poi è diventata cotoletta alla milanese, insomma. Chiamato anche Schnitzel, sì, anche sì. Se era in realtà un hamburger, capito? Era fatto con a base di naturalmente burro, perché si usa più burro che olio, e poi con l'aglio sbucciato, fatto a fettine e inserito direttamente dentro la carne. Bene, grazie anche per questo ricordo di Anna da Roma. Ora, dicevo, abbiamo in linea Franco Cazzamali. Franco Cazzamali, il macellaio di Romanengo, il quale da anni diciamo, ha cominciato a produrre, a distribuire un hamburger che un hamburger alle specie dell'hamburger, poi sentiamo cosa c'è dentro, se è un hamburger vero, tradizionale, oppure se c'è qualche cos'altro, che si chiama Giotto. Buongiorno Franco Cazzamali. Buongiorno a tutti. Ma innanzitutto, Franco, perché l'hai chiamato Giotto? Ma allora, innanzitutto l'abbiamo chiamato Giotto per una cosa. Pronto? Sì, sì, ti ascoltiamo. Scusa. Allora, l'abbiamo chiamato Giotto per un fatto molto semplice. Innanzitutto, tu sai che io uso esclusivamente per scelta solamente rap piemontese, e è fatto semplicemente con della carne tutta italiana, fatta in Italia da allevatori italiani, lavorata da macellai italiani. Poi ho pensato che il cerchio l'ha inventato Giotto, che era italiano, e non riesco a capire perché lo devo cambiare, chiamare con un altro nome. È molto semplice. Quindi una cosa volevo chiedere. Tu all'inizio credevi nel successo di questo prodotto, perché cioè l'hamburger, il tuo Giotto e tanti altri hamburger, cioè sta tornando diciamo nelle tavole sia dei ristoranti che anche di molte famiglie. Qual è la chiave del successo? Perché si mangia carne buona e si spende poco? Perché è un piatto completo? Perché? Ma allora, innanzitutto la mia è stata una sfida assieme a Sergio Capaldo. Poi abbiamo provato anche altre razze a fare questi Giotto, e abbiamo fatto con la bianca modenese, l'abbiamo fatto con la razza podolica calabrese e abbiamo fatto anche con altre razze. E io ho sempre creduto in questo successo per un fatto molto semplice, che dietro al nostro Giotto c'è una tecnica di raffreddamento delle carni prima, dove noi andiamo a fare 3 macinature senza superare lo 0 gradi o 1 grado, e soprattutto non mettiamo assolutissimamente nessun tipo di conservante, né tantomeno antiossidante, e lavoriamo con sale e pepe, dello zucchero di canna, quello bianco che si usa per i champagne, e un po' di acqua minerale, e vedi che l'acqua minerale ritorna ancora, certo, oltre che nel bollito. Ecco, quanto costa? Cos'è, 125 grammi? No, noi li facciamo facciamo da 100 grammi, perché 100 grammi lo mangiano i bambini piccoli, li mangiano gli anziani, poi a richiesta li facciamo da 80 grammi o da 120, da 150. Il 100 grammi, quello di 100 grammi più o meno comprandolo diciamo da un rivenditore che ha i tuoi prodotti, quanto viene a costare? Ma guarda, io in negozio li vendo 15 euro al chilo. Benissimo, quindi viene un euro e mezzo, insomma, facendo i calcoli veloci di 100 grammi. Quindi sicuramente oggi, con i tempi che corrono, potrebbe essere anche un prodotto sicuramente provare. Bene, io ti ringrazio perché tu hai rilanciato questo prodotto che stava prendendo una piega, come posso dire, proibita. Tutti pensavano al fast food, tutti pensavano a un qualcosa di molto lavorato, particolare, e invece può tornare alla tradizione della carne macinata quando è fatta bene, appunto anche con delle tecniche nuove che tu stai imponendo. Grazie a Franco Cazzamali, macellaio Romanengo. Sentiamo Tiana da Roma, che nome strano. Tiana, ho detto bene, Tiana? No, l'accento non è perfetto, ma non fa niente. Tiana. Ah, Tiana, perché qua mi hanno passato questa cosa sul video, quindi non ho gli accenti. Non ecco. Ti preoccupi. Allora, io sono di origine serba e nella nostra cucina esiste una specie di hamburger chiamato pljeskavica, che credo abbia le origini ancora più antiche dell'hamburger odierno. Interessante, no? Questo. Prego? No, dico, molto interessante questo. Visto che tutta la nostra cucina deriva in maggioranza, diciamo la maggior parte deriva da Oriente, c'è anche una corrente del pensiero che dice che è bizantina, c'è da pensare che questo hamburger che si mangia nei nostri ristoranti, ma anche nelle nostre case, abbia un'origine abbastanza antica. È molto semplice, si usano più di un taglio di carne, vari tagli di carne, che spesso sono un segreto, diciamo, del ristoratore, e si aggiunge il sale, il pepe, e l'acqua minerale, come diceva la persona che ha parlato prima di me, molto semplice. La pljeskavica non si mangia lo stesso giorno in cui l'impasto e la stessa forma è stata preparata, ma deve, tra virgolette, stagionare un 24 ore. Va fatta sulla brace, molto velocemente, mangiata o su così, diciamo, liscia, o sulla cipolla abbondante, dolce, oppure sui formaggi particolari. Si può anche mangiare strada facendo, diciamo, come una specie di fast food, anche se non lo è. Bene, io volevo chiedere, lei è del mestiere? No, io non sono del mestiere, assolutamente. Comunque le faccio i complimenti perché parla un italiano perfetto, quindi io la ringrazio per averci dato questa grande, grande novità che abbiamo scoperto anche in altre cucine, che vuol dire che l'hamburger forse è un qualcosa di multietnico, o almeno questa tipologia di piatto è un qualcosa che si ritrova in tutte le culture, diciamo, le più disparate. Grazie, la ringrazio molto. Schiacciatine, Svizzera, medaglioni, insomma vari nomi per sostituire l'hamburger di cui abbiamo parlato finora. Abbiamo sentito addirittura che può avere delle provenienze o addirittura oltre quelle americane e tedesche, quindi addirittura stiamo scoprendo una realtà davvero incredibile. E abbiamo con noi un gourmet molto, molto ricercato che si chiama Bob Noto. Buongiorno Bob. Buongiorno, come stai? Bene, io ti voglio chiedere, Bob, ma tu di fronte all'hamburger come ti poni? Visto la tua ricercatezza, visto le tue conoscenze, visto la tua qualità di grande degustatore? Fatto l'hamburger è un grandissimo piatto, guarda, proprio recentemente, poco prima di agosto, sono andato alle Calandre e c'era Massimiliano Alaimo che ha messo in menù il calandrino locale che hanno di fianco, un hamburger veramente eccezionale, ne ho assaggiati di eccezione anche fatti da Carmen Ruscaieda, per esempio, che lo fa sia di carne che di tonno. Io l'hamburger è un piatto che a me piace molto, se ben fatto. Ecco, devo dire che c'è un piatto, c'è un hamburger in America che si chiama Richard Nouveau, che costa $175 ed è composto di carni bovine, tartufo nero, formaggi, funghi e funghi selvatici. Quindi diciamo che si va sulla ricercatezza, si va sulla cucina, si va sulla cucina anche creativa. E ho con noi Fulvio Pierangelini. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, buongiorno a voi. Hai mai inventato un hamburger? Sì. Quando ho lavorato per anni per un'industria alimentare, ho inventato il primo hamburger di prosciutto cotto, che poi altri hanno prodotto, ma è stata una mia idea assoluta quella di utilizzare il prosciutto cotto, insomma. E poi al ristorante chiaramente gli hamburger di maiale con i maialini che facciamo qui, insomma. Ho lavorato molto sugli hamburger. Bene, sentiamo Christian da Roma. Buongiorno Christian. No. Velocemente perché ho poco tempo, perché... prego. Io sono americano, volevo dire che è triste che l'hamburger è famoso per l'hamburger del fast food, perché l'hamburger con il cheesecake e con i donuts forse è una è la cosa americana da mangiare più famosa. E è famosa in realtà solo per lo snack del fast food, e in America non è così. L'hamburger può essere molto molto buono e non è quello del fast food. Beh, Christian, credo che diciamo che tutti gli interventi lo abbiano dimostrato, non ultimo questo di Fulvio Pierangelini e di Bob Noto. Senti Bob, ma secondo te, abbiamo parlato di parole, tu sei anche un creativo, Svizzera, medaglioni, schiacciatine, qui ci sono grandi ricordi, tu come lo chiameresti italianizzandolo? L'hamburger? Sì. Ma hamburghese, non lo so. poi si confonde però col galletto. Sì. No, non va bene. Ci penso e ti dico, la prossima trasmissione. Bene, grazie. Grazie Bob. Fulvio, tu pensi che possa entrare nella grande cucina l'hamburger, diciamo, come tecnica, quindi come presentazione, oppure rimarrà ancorato al fast good e non più al fast food? Ma no, sicuramente si può inserire all'interno di una preparazione, quindi noi già facciamo nel servizio del maialino, cioè tutto sommato una polpetta. E quindi c'è un tipo di lavorazione. C'è già, però noi chiaramente la camuffiamo, ne togliamo un po' le forme e ci siamo inventati una forma, ma il sapore è quello. Poi è fantastico perché tu puoi inserire un'infinita di profumi all'interno della carne, e quindi puoi fare ogni volta una cosa diversa, e questo per me è bene, molto bello. Io mi aspetto prima o poi da te un qualcosa veramente di molto particolare attorno a questo piatto, magari chiamandolo in altra maniera. Grazie Fulvio, a presto, e grazie anche a Bob Noto. Sentiamo Francesco da provincia di Treviso, l'ultimo, prego, velocissimo Francesco. Sì, buongiorno, io volevo segnalare un impasto di carne macinata con varie spezie, forse neanche solo manzo, forse c'è anche del maiale dentro, che è il pastin, che è tipico bellunese, cioè si va nelle macellerie bellunesi e servono questa carne tritata che può essere mangiata a crudo, tipo tartara, diciamo così, oppure fatta a medaglioni, a polpette, così, fritta o fatta alla griglia, insomma, ecco così. Bene, e abbiamo, grazie anche per questo pastim, questo potrebbe essere magari, pastim non è che è dialettale, insomma, dare questo nome è un po' difficile, ma vedo che in Argentina si chiama hamburguesa, bene, la traduzione diciamo è tradotto in spagnolizzato, perché anche in Spagna lo chiamano hamburguesa, quindi abbiamo i nostri radioascoltatori che ci hanno dato questo aiuto. Bene, ci avviciniamo alla conclusione, Svizzera... non so come si voglia chiamare, medaglioni o d'altro, però è stato veramente interessante perché ho scoperto che diciamo questa tipologia di piatto è nel ricordo di molti, di moltissimi, e quindi questo secondo me è sempre un aspetto molto ma molto importante. Però io ripeto, io credo molto in questa ripresa di questo piatto, di questo prodotto, un prodotto che è italianizzato perché bisogna usare della carne di grande qualità e magari delle tecniche anche che ci ha illustrato Cazzamali, ma io credo che si possa mangiare tranquillamente se il macellaio ha carne di grande qualità e se è molto onesto quando quella carne passa nel macinino. Un consiglio: fatevi pulire prima il macinino, scegliete voi il pezzo di carne, fatevela mettere dentro, state attenti e quindi che venga sulla carta quello che avete scelto voi. Buon weekend dal vostro Davide Paolini.